Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Eccoci di nuovo insieme. Si apre questa casa che non è un albergo e insieme a me il mio inquilino preferito, Alberto Pellai. Ciao. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Siamo qua anche oggi. Allora, una puntata con degli ospitoni, vero Alberto? E che ospiti! E che ospiti, l'abbiamo pensata perché ci è arrivata una mail in redazione, da cui come sempre noi prendiamo spunto per strutturare un po' le puntate. Meno male che ci scrivete, così ci suggerite anche dei temi un po' intelligenti e ci faremo aiutare da due grandi personaggi. E proprio perché sono due personaggi davvero di altissimo profilo, invece di cominciare dalla lettera, oggi incominciamo con una sorta di gioco. Vogliamo capire insieme a voi se riuscite a indovinare chi sono i nostri ospiti. Perciò vi diamo delle tracce sonore per provare ad individuarli. Il nostro primo ospite è con noi in studio e sentite come si racconta. Ho cominciato a suonare come musicista di strada negli anni 70. Il repertorio era prevalentemente West Coast, con tracce di Beatles. Avevamo letto Kerouac, insomma, e c'era anche parecchio piaciuto. Per strada, in Italia, si moriva nelle stragi di Stato, per la strategia della tensione, opposti estremismi e tutta quella robaccia lì. Ma si viveva anche, e piuttosto bene, devo dire. Noi, perché eravamo un duo, ci davamo dentro di brutto. La sera a Piazza Navona. L'estate in giro per l'Europa. Londra, Parigi, Madrid, Barcellona, Lisbona. Bastava una piazza, una strada pedonale, una stazione della metropolitana per snocciolare il nostro repertorio. Questo ci dava da vivere, in tutti i sensi. Come poi sia finito a Sanremo non lo so, ma è successo all'improvviso. A me fu proposto Castrocaro, vinsi e boom, l'Ariston. Che botta, ragazzi. Uscii da quel teatro con la scorta per le centinaia di ragazzi che mi aspettavano per un autografo o una stretta di mano. Una specie di shock positivo. E pensare che l'usciere il pomeriggio alle prove non voleva farmi entrare perché non avevo il pass. Da lì è cominciato un viaggio che non si è mai più fermato. E infatti il viaggio continua e ha fatto una piccola sosta qua in studio da noi. E infatti qua con noi c'è Luca Barbarossa. Ciao, ma ciao, che bello. A tutti, ma che bella presentazione. Addirittura sono stato letto come quando Benigni legge Dante, insomma, una cosa. Hai sentito? Letta la mia biografia, insomma, mi fa molto piacere. Grazie della vostra accoglienza, del vostro affetto. Allora Luca, siamo pronti per sentire invece la scheda che ci presenta il nostro secondo ospite. I bambini non nascono con la verità in tasca, ma con un mucchio di domande che sono un invito alla ricerca. Domande spesso disattese dal mondo adulto, che pensa di sapere come stanno le cose, e perciò non presta attenzione alle loro domande, che così restano morte e inevase, mentre potrebbero mettere in crisi le risposte che gli adulti si sono dati ai problemi della loro vita e cambiare così la loro visione del mondo. In questo senso è possibile dire che la filosofia non è un sapere, ma un atteggiamento. L'atteggiamento di chi non smette di fare domande e di mettere in crisi tutte le risposte che sembrano definitive. Per questo l'atteggiamento filosofico è la macchina capace di inventare un mondo possibile, al di là del mondo reale. Alberto, so che ci tieni molto a presentare l'ospite che è stato introdotto da questa scheda. Sì, devo dire davvero che oggi ho due dei miei miti personali. Se Alberto Pellai può avere una sua mitologia, per me è proprio un riferimento per il lavoro che faccio, e con noi l'avrete riconosciuto proprio, direi, perché è inconfondibile la profondità del suo pensiero, c'è il professor Umberto Galimberti. Buongiorno professore, bentornato al nostro programma. Buongiorno Alberto, buongiorno. Professor Galimberti ha appena pubblicato per Apogeo un volume dal titolo molto intrigante, Il segreto della domanda intorno alle cose umane divine. Mentre Luca ha appena pubblicato un CD dal titolo Via dalle storie infinite. Ma Luca, quali sono queste storie infinite? Beh, le storie infinite sono tante, sono le nostre passioni, i nostri amori, i nostri riferimenti che ci accompagnano anche laddove ci sono delle separazioni, a volte anche dolorose, ma, certo, ma sono vissuti in modo talmente intenso, ci hanno toccato profondamente l'anima, per cui queste storie in qualche modo vivono in noi, continuano anche quando non ci sono più di fatto. È terribile poi spiegare delle canzoni, io non sono molto capace, perché poi sembra sempre un saggio, no? Quando uno prova a spiegare una canzone sembra una cosa diciamo più importante, più di quello che è. La realtà è che poi la canzone tenta di far vedere l'invisibile, cioè di trasmettere uno stato d'animo, ecco, è più che altro una canzone evocativa, Via delle Storie Infinite. D'altronde, professore, nella sua scheda abbiamo sentito l'atteggiamento filosofico è la macchina capace di inventare un mondo possibile al di là del mondo reale. Sì, perché la filosofia sostanzialmente nasce come critica dell'esistente. Il suo atteggiamento è sostanzialmente questo, e la critica dell'esistente è la condizione per inventare un mondo altro rispetto a quello in cui viviamo. Quindi un po' nelle canzoni, nella filosofia possiamo, no, avere un denominatore comune, un filo rosso. Che dice, professore? Dice Nietzsche che la filosofia nasce dalla tragedia, ma la tragedia era innanzitutto musica. Vede, professore, ci avevo preso, ha visto? Adesso... Meno male che ha risposto il professore a questa domanda, avrei fatto più fatica. Non avrei trovato le parole giuste, ma Alberto le parole giuste ce le ha sempre e vedo che vuole già subito intervenire. Alberto? No, i nostri ascoltatori si accorgeranno poi, perché abbiamo questi due ospiti proprio per la puntata di oggi. Ritorno proprio alla bellezza anche del titolo del libro del professor Galimberti, Il segreto della domanda, perché lavorando con gli adolescenti, parlando con genitori e figli, mi rendo conto che questo è un mondo pieno di risposte, dove quasi nessuno però sta davvero a scoprire il segreto della domanda, la domanda dietro la domanda. Per cui un libro pieno di domande è davvero uno stimolo non indifferente per chi la legge e per chi la segue, professor Galimberti. Eh sì, ma questa cosa incomincia già dai bambini, quando i bambini intorno ai 3-4 anni cominciano a chiedere perché c'è la luna in cielo, domanda peraltro che è rimasta in bocca anche a Leopardi, assumono immediatamente un atteggiamento filosofico, perché se è vero quel che dice Aristotele, che la filosofia nasce dal dolore e dalla meraviglia, è che i bambini cominciano a meravigliarsi del loro essere al mondo, a cercare di acquisire i codici per interpretarlo, ma la meraviglia fa nascere il perché, la domanda. Dopodiché i genitori a queste domande le prendono come spiritosaggine o come segnali di superintelligenza, ma però non rispondono. E questa mancata risposta fa cadere la domanda nell'insignificanza anche agli occhi del bambino, il quale penserà di sé: forse non conto niente, non sono riconosciuto, questa domanda non aveva senso. E da qui cominciano quei processi di chiusura o comunque di svalutazione, proprio perché alle domande non si risponde. È arrivato il momento di allora sentire la lettera, l'email che è arrivata in redazione, da cui abbiamo preso spunto, che guiderà un po' la nostra trasmissione. Sentiamo. Sono un padre di 50 anni. Mia figlia Luisa è nata 14 anni fa. Rispetto ai miei coetanei sono diventato padre più tardi. Del resto la vita mi ha sempre tenuto molto impegnato. Negli anni 70 ho vissuto un'adolescenza piena di cose per cui combattere, ideali su cui investire le mie energie migliori. Ho studiato, vissuto, amato, ma vedendo il vuoto in cui sta crescendo mia figlia rimango senza parole. La politica, che ai miei tempi era il tema dominante, oggi non si sa più nemmeno cos'è. La religione li ha delusi e dopo anni di catechismo fatti per dovere, di quell'esperienza non c'è più traccia nella sua vita. La scuola è un impegno che viene assolto per senso del dovere, ma in cui non è rintracciabile alcuna esperienza di piacere. Insomma, osservo mia figlia e mi domando dove è andata a finire la società migliore per cui ho speso gran parte della mia vita. Gli adolescenti di oggi non si danno risposte, ma forse non si pongono nemmeno le domande. La musica di cui si riempiono l'iPod è tutta uguale. La loro cultura, piena di falsi eroi di carta pesta. Come si accende la passione di un adolescente? Perché la fiamma che ci incendiava 40 anni fa non sfiora più il cuore e la mente degli adolescenti di oggi? io girerei subito questa domanda ai nostri ospiti, e però Alberto, inizia tu, no? Proprio a caldo. Ma direi che partirei dal cantautore Luca Barbarossa, che... Io veramente vorrei una risposta da te, poi Luca lo sentiamo. Ah, ok. Penso davvero che il problema della passione, cioè di quello che ti accende nella vita quando sei adolescente, sia legato al fatto che hai un'idea e un ideale per cui vale la pena combattere, per cui vale la pena investire sul tuo futuro. E effettivamente noi non stiamo vendendo un futuro ai nostri figli, ai nostri ragazzi, noi stiamo in qualche modo cercando di farli sopravvivere nel presente, dicendo che tutto è nel qui ed ora. E secondo me questa prospettiva di una vita privata dell'orizzonte di senso, che guarda al dopo, al domani, è davvero troppo povera per un ragazzo. Luca, concordi? Beh, la visione di questo padre è abbastanza catastrofica, sì. Però serve come spunto di riflessione, insomma, perché chiaramente per fortuna esistono anche le eccezioni. Spesso siamo portati a parlare dell'universo giovanile come se fosse un tutt'uno, così non è, insomma, così come gli adulti, insomma. Io, mio figlio, mi fa ben sperare, a 8 anni si è iscritto a Greenpeace e sogna di andare a combattere per difendere l'ambiente, quindi anni? Probabilmente ci sono 8 anni e mezzo. Ma probabilmente si accendono passioni diverse dalle nostre, ogni generazione dovrebbe avere le sue, però capisco che noi adulti probabilmente oggi proponiamo una scala di valori che è falsata, a partire da quello del denaro, insomma oggi ti si giudica più per quanto guadagni che per quello che sei. Sentivo in un dibattito poco tempo fa che un professore magari 30 anni fa godeva di rispetto anche con uno stipendio, diciamo, modesto. Adesso invece per il suo ruolo, che è un ruolo importantissimo, quello di chi insegna. Oggi già professore viene visto, nessuno vorrebbe fare l'insegnante, no, dei ragazzi, insomma si sognano modelli di riferimento spesso presi in prestito dalla pubblicità, dalla televisione, che sono modelli abbastanza inquietanti e facili, ecco. Però sta molto a noi, insomma, noi, visto che qui parlavamo di un genitore, sta molto a noi, insomma. Questa casa non è un albergo. Eccoci, siamo tornati veloci perché oggi puntatona, Alberto, con grandi ospiti. Sul salotto accomodato, sul salotto buono c'è Luca Barbarossa, ma al telefono abbiamo il professor Galimberti. Sta molto a noi, professor Galimberti, quanto sta agli adulti questa, no? Questa magari non desiderio dei giovani di fare domande, di vedere il futuro, questa sorta di apatia, no? Che il nostro padre così descriveva. Ma Luca Barbarossa ha citato opportunamente il denaro come sostanzialmente l'unico generatore simbolico di tutti i valori, per cui noi oggi capiamo bene cos'è utile, non sappiamo più che cos'è bello, cos'è buono, cos'è santo, cos'è vero, cos'è giusto, appunto perché tutte queste categorie sono tutte messe sotto suolo dalla figura del denaro. Ma come diceva bene prima Alberto, quando il futuro non è più una speranza, il futuro non retroagisce per stimolare la passione. Che cosa motiva un giovane se il futuro è indecifrabile? L'indecifrabilità del futuro produce un collasso dell'autorità dei genitori e degli insegnanti, per cui i genitori, per motivare i figli, sono costretti a diventare contrattuali. Se sei promosso ti regalo il motorino, se ti lauri ti regalo l'automobile. E allora la figura del mercato, questo dio che ormai invade tutte le relazioni umane, finisce col far collassare l'autorità, e i giovani hanno bisogno invece di autorità, la cercano, la desiderano, anche se non la ammetteranno mai. E invece si trovano con dei genitori amici in un contesto sostanzialmente mercantile. Luca, ragionavo un po' su tutto quello che abbiamo detto e sulle domande che ci faceva il nostro papà, e tra l'altro reclutava proprio la musica, facendo un confronto tra cos'è stata nel 68 la musica per chi stava lottando per i suoi ideali e cos'è la musica oggi per i nostri ragazzi. Io sono entrato proprio nelle tracce di tutto il tuo nuovo CD, che è davvero un CD profondo, cioè pieno di brani che sono l'esatto contrario della banalità che impera. C'è una canzone, Invece No, che è veramente una canzone piena di significati, piena di contenuti, una canzone proprio come il vecchio cantautore. Però apparentemente sembra che questo non funzioni più per i ragazzi di oggi, cioè la musica è un mordi e fuggi. Hai questa percezione? Chi è il tuo pubblico oggi? Chi ascolta una canzone come invece no? Io mi auguro di scrivere per tutti, almeno mi impegno scrivendo, di scrivere per tutti, non faccio distinzione. Poi è vero anche che tra me e il pubblico, soprattutto quello adolescenziale, quello dei più giovani, c'è un muro di addetti ai lavori che forse hanno già deciso cosa loro devono ascoltare. Sì. Perché lo sponsor vuole quello, il target è quell'altro, e si cominciano a usare vario tipo di parolacce, insomma. Come dice qualcuno, il milanese moderno, tutti i termini inglesi che dice il milanese moderno. No, ma anche a Roma, cioè, si usano termini per definire sempre delle fette di mercato, quindi è molto difficile per me, che ho 47 anni, far ascoltare qualcosa ai giovani. Per fortuna però c'è questo arriva. Strumento straordinario che è la radio. Io cerco di parlare dei miei dischi sono abbastanza esistenzialisti, come sottolineavi tu, cioè nel senso che parlo delle nostre passioni, delle nostre scelte, delle nostre contraddizioni, dei nostri amori, delle nostre storie infinite. E cerco di fare questo perché sono argomenti, come ci insegna la letteratura, il cinema, che non hanno un'età precisa. Però è evidente che bisognerebbe attirare un pochino l'attenzione, perché certe cose ci vuole anche una chiave per ascoltarle, una chiave di lettura. Se non ti spiegano, voglio dire, l'Odissea, probabilmente non ne percepisci la bellezza. È così la Divina Commedia, e vedi il successo di Benigni quando la spiega prima di leggerla. E a me a scuola nessuno me l'ha spiegata così, sarò stato sfortunato, ma io mi ricordo che era una noia mortale. Mi sono commosso quando ho risentito spiegata la Divina Commedia in questo modo. Allora, ci sarebbe, io quando vado nelle scuole, per esempio, riesco a far capire chi era Fabrizio De André, chi è stato Bob Dylan, perché è stato così importante dal punto di vista non solo musicale, ma proprio nella cultura mondiale. Ecco, bisogna quando ho l'attenzione, forse queste chiavi, no? Queste i ragazzi chiavi sono di apertura in silenzio ad ascoltare, fanno gruppi di studio. Certo, se gli si dà solo la cosa mordi e fuggi, usa e getta, come spesso accade con la musica commerciale, non ci lamentiamo poi che non abbiano un livello d'attenzione adeguato. Professor Galimberti, domanda da mille punti, ma da questo pantano come si fa ad uscire? Quello che ha detto Barbarossa è essenziale. Lui ha definito la propria musica esistenzialista, ma perché la musica sia esistenzialista bisogna conoscere le emozioni, sapere sì. Cos'è l'amore, il dolore, la noia, la tragedia, la disperazione. E queste cose, come diceva opportunamente lui, si imparano nella letteratura. Perché cos'è la letteratura se non un repertorio della conoscenza delle emozioni? Ora, i nostri ragazzi hanno perso molto vocabolario, prima dicevate che utilizzano poche parole e con una sola parola riescono a esprimere tutti i sentimenti, basta pensare alla parola più famosa, una volta rubricata come parolaccia, che serve per esprimere stupore, rabbia, indignazione, gioia, con una parola sola. E anche la musica finisce con l'essere regredita, perché la musica dei giovani è quella del du du du du du du du du, ma questa è la musica, una musica molto regressiva, è la musica del battito cardiaco, è la musica del polso, è la musica del respiro, sono le musiche proprio di una precognizione del linguaggio musicale. Le nostre discoteche sono fatte con quella musica lì, ma quella musica lì è la musica del ritmo corporeo, ma non è la musica che fa pensare, è la musica che ti fa conoscere le tue emozioni, che ti consente di esprimerle. Questa è, per me, una vera tragedia. La ricerca del sacro è tra l'altro il primo capitolo del suo volume, Il segreto della domanda. Vogliamo approfondire questo aspetto, perché sembra che un po' i ragazzi abbiano un po' perso, no? Questa parte così importante, no? Anche per la loro crescita. Sì, perché le religioni storiche hanno disertato il sacro e si sono messe a parlare di cose che ogni società civile può affrontare e risolvere da sé. Si sono messe a parlare di aborto, di contraccezione, hanno rinchiuso il sacro nella camera da letto, oppure si sono espressi intorno alla scuola pubblico-privata, cioè sono apparsi un'istituzione della terra che gli uomini hanno sempre tenuto separato dagli spazi della loro vita quotidiana. Hanno stabilito, per esempio, che la chiesa, la sinagoga o la moschea fossero luoghi sacri, fuori invece c'è uno spazio privato, c'è un tempo sacro che è la festa dove si consuma tutto quello che si è raccolto rispetto ai giorni feriali che sono invece i giorni del lavoro, della consuetudine. Hanno istituito i sacerdoti con un piede nel sacro e un piede nel profano, perché il sacro è tremendo. Gli uomini hanno offerto sacrifici agli dèi non per ottenere delle grazie, ma per tenerli lontani, perché quando il sacro irrompe nella comunità degli uomini, come ci insegna bene Euripide, è un disastro. Quando Dioniso arriva a Tebe, crolla il palazzo reale, il re si comporta come un povero homeless, le donne salgono sul monte Citereo menando il Tirso, i vecchi si comportano come i bambini, è il disordine generalizzato. Questa raffigurazione del sacro a livello mitologico è il corrispondente di quello che dentro di noi ci abita e che si chiama follia. Ciascuno di noi ha dentro di sé un nucleo di follia a cui bisogna attingere per diventare creativi naturalmente, ma che bisogna attingere procedendo con una certa cautela, perché la follia ci può trascinare dentro. Siccome tutti quanti noi abbiamo un nucleo di follia, ci vogliono questi interpreti della follia collettiva che un tempo erano i sacerdoti, che attraverso le religioni, parole che vuol dire relegare, contenere, tenere dentro in modo che non si espanda, avessero la possibilità di condurre una vita normale con delle aperture sullo scenario folle che è poi il luogo imminente della creatività. Buona giornata al professor Galimberti e a Luca che è venuto a trovarci. Torna però, eh? Molto volentieri, grazie. Questa casa non è un albergo. Eccoci, siamo tornati insieme e siamo pronti per affrontare un nuovo tema. E parliamo nello specifico di una paura, di un timore molto diffuso, che è quello nei confronti di numeri e matematica. E allora direi di iniziare subito a sentire il primo caso di oggi. Sentiamo la lettera della mamma che ci ha scritto preoccupata per il suo ragazzo. Sentiamo. Si può essere allergici alla matematica? Me lo chiedo e ve lo chiedo perché mio figlio Roberto è un vero studioso. Ama i libri, è sempre aggiornato su tutto, a scuola fa faville. Ma la matematica è indubbiamente il suo tallone d'Achille. È decisamente la materia in cui si impegna di più. Tra l'altro spendiamo un sacco di soldi in ripetizioni e a malapena Roberto arriva alla sufficienza, quando in tutte le altre materie i voti sono molto più alti. In famiglia nessuno ha mai avuto una tale avversione ai numeri. Tra l'altro il papà è ingegnere elettronico. Per me come mamma è frustrante vederlo fare così tanta fatica e scoprirlo sempre tanto deluso dalle votazioni che ottiene dalla sua professoressa. In verità, abbastanza arcigna. Insomma, se avete un consiglio, a noi piacerebbe trovare una soluzione al nostro problema di matematica familiare. Allora, una mamma, un figlio in difficoltà con i numeri, non è il solo. Alberto, ce ne sono tanti là fuori. Genitori, prendete carta e penna, oggi probabilmente c'è da prendere appunti. A questa casa non è un albergo. Allora, presentiamo l'ospite che avevamo anticipato, di cui non so perché abbiamo un po' di timore, perché lui invece con la matematica non ha nessun problema, anzi lui ci va forte, nozze. Abbiamo al telefono il professor Giovanni Filocamo. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Se questa soluzione non ce l'ha il nostro ospite, io non so chi possa avercela. Abbiamo in linea il professor Giovanni Filocamo, che è un laureato in fisica, ha appena pubblicato il libro Mai più paura della matematica per Kowalski Editore e tra l'altro è il project manager di Mate Fitness, la palestra della matematica, un progetto che è stato organizzato dal CNR. Professore, ha sentito il problema della nostra mamma rispetto al figlio Roberto? Sì, ho sentito e credo che sia una cosa molto molto comune. Quindi niente di più normale che uno all'inizio non abbia delle grandi performance e niente di più falso del fatto che io non ho mai avuto problemi con i numeri, perché anche per me è stato lo stesso. Io ho fatto proprio tutto questo percorso, anche io ero un grande pauroso di matematica e al liceo non andavo affatto bene, qualche anno addirittura non avevo neanche la sufficienza. Ma quello che mi ha fatto amare la matematica, non solo i numeri ma tutti gli aspetti della matematica, infatti nel libro proprio si comincia dicendo che i numeri sono uno degli aspetti meno importanti della matematica, anche se la scuola ci fa credere il contrario, Diciamo che io ho, come dire, ho dato grande importanza al lato emotivo che sta dietro la matematica, cioè far bene matematica ci dà veramente fiducia in noi stessi e viceversa, se noi siamo persone che abbiamo fiducia nei nostri mezzi, nelle idee che ci facciamo, del mondo che ci circonda, andiamo bene anche in matematica. Per me è stato proprio così, io ho cominciato ad andare bene, mi sono iscritto all'università a fisica, della verità ho fatto fisica teorica, però è un curriculum molto vicino a quello dei matematici, e ho incominciato ad amare la matematica e a eccellere in questa materia dopo che ho acquisito fiducia in me stessa anche in altri campi della mia vita. Professor Filocamo, lei sta dicendo che c'è una sorta di filo sottile che tiene unita l'autostima di un ragazzo e la sua capacità di farcela, di avere successo in matematica. Io sono convinto. A questo punto però a me come medico viene da dire, allora noi abbiamo veramente da aprire corsi ospedaliere dentro alle nostre scuole, perché la matematica fa davvero paura a tantissimi ragazzi e ragazze, e tra l'altro è proprio uno di quei talloni d'Achille di cui parla anche la mamma nella lettera, che fa faticare con il corso e nel percorso di studi. Ma perché uno si ammala della sindrome della paura della matematica? Dunque, intanto c'è una ragione proprio patologica, cioè è stato scoperto che una percentuale non irrisoria di iscritti dei nostri ragazzi soffre di disturbi di dislessia, disgrafia e anche discalculia, cioè c'è proprio un disturbo patologico che affligge una percentuale appunto non irrisoria di ragazzi che proprio non riescono hanno questo disturbo della mente, non riescono a seguire per esempio dei passaggi o fanno fatica a seguire un'operazione. Ma diciamo, tolti questi casi un po' più gravi e seri ovviamente, io credo che la matematica sia una difficoltà specialmente nel mondo di oggi, perché ci costringe a guardare le cose per quello che sono e non per quello che vorremmo che fossero, per cui uno per quello che secondo me il lato emotivo è molto importante, quando uno legge un libro o comunque gli si dice una notizia, siamo immersi proprio in un mondo dove legge una notizia su un giornale ed è in un modo, legge una notizia su un altro giornale ed è in un altro. E quindi puoi dare soprattutto anche la tua versione personale, esatto, mentre nella matematica l'equazione è quella. Professor Filocamo, ma possiamo dare delle indicazioni? Serve un'applicazione costante per diventare bravi in matematica? Beh sì, come tutte le discipline ovviamente la matematica non può essere solo legata al gioco, ha bisogno anche di studio e di applicazione, o come tutte le altre cose, anche come gli sport per esempio. Certo. La cosa importante è capire che la matematica non è solo quello che ci hanno insegnato a scuola, ma coinvolge anche altri aspetti del nostro esseri umani, che coinvolge quindi la creatività, la fantasia, il linguaggio, coinvolge aspetti anche molto più interessanti e divertenti. A questo proposito, visto che la lettera della nostra mamma citava un'arcigna professoressa, quanto gli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado hanno adesso nuove competenze, possono davvero trasformare la matematica non solo in una serie di operazioni di numeri, ma magari in una sorta di laboratorio in cui ci si può anche molto divertire imparando? Ah, assolutamente sì, anzi, come al solito, mi spiace, questo è un adagio che si ripete spesso, in Italia siamo indietro rispetto al resto d'Europa, per esempio, per non parlare degli Stati Uniti, dove queste cose si fanno da anni. Sicuramente c'è del lavoro che si può fare, e sicuramente grazie anche a giochi come, che so, il Sudoku, o anche a altre iniziative come il Festival della Matematica che si è appena concluso, come la nostra Palestra della Matematica, come i Festival della Scienza che sono sparsi un po' in tutta Italia, per l'Italia, si può veramente vedere la matematica con occhi diversi e anche con, in maniera diciamo più vicina a quello che la matematica veramente è. Mm. Professore, mi aiuti, io non ero un granché in matematica e sto allevando una piccola truppa di quattro bambini, che e bello. Vorrei che, non so, si può fare prevenzione della paura della matematica, cioè con bambini in età prescolare o che hanno appena cominciato la scuola primaria? Ci sono assolutamente cose che... sì, ci sono un sacco di giochi che si possono proporre, sia quelli diciamo elettronici, che però forse sono un po' più freddi, oppure guardi, li metta intorno a un tavolino tutti e quattro e gli chieda in quanti modi diversi si possono sedere intorno a quel tavolino. Loro possono cominciare a contare questi modi, poi magari qualcuno si può accorgere se i bambini diventano 5, questi modi aumentano, insomma si fa della vera sperimentazione, cioè e fanno gli stessi ragionamenti che hanno fatto a loro tempo i matematici dell'epoca. Quindi coinvolgere i bambini nei giochi, che siano giochi di ruolo come questo, oppure giochi di società, gli scacchi per esempio, insegnare a giocare a scacchi è una cosa molto educativa e formativa, perché devono imparare ad avere una strategia, a rispettare delle regole e così via. Sono tutti degli aspetti che gli serviranno e nella pratica della matematica e nel resto della loro vita. Mi sembra che anche in questo caso prevenire sia meglio che curare. Assolutamente, perché, sì. Perché se io le avessi chiesto invece di dare un consiglio per ragazzi cocciutamente ignoranti in matematica nel liceo, immagino che il professore sarebbe stato un pochino più in difficoltà. Quindi la domanda non gliela faccio, mi dica invece un errore che lei vede spesso di frequente nei ragazzi più grandi che frequentano quindi il liceo alle prese con votacci in matematica. Ma ad esempio errori che si riscontrano su ragazzi forse non tanto grandi ma anche già grandicelli è legato alla pratica dell'algebra con le frazioni. Le frazioni, quindi le operazioni con le frazioni, le moltiplicazioni, le divisioni, i minimi comuni multipli e così via, sono delle operazioni che ci vengono insegnate quando siamo abbastanza piccoli, ma studi anche recenti hanno dimostrato che proprio le frazioni sono un concetto difficile anche da capire, anche graficamente e così via. Quindi è un errore abbastanza comune che si fa ed è difficile far entrare nella testa di un ragazzo come si fa a fare per esempio la divisione fra due frazioni, ma che cosa devo invertire, ma devo fare moltiplicare per il numeratore, dividere per il denominatore oppure il contrario, sì, e così via. Sono tutti degli aspetti che appunto sono perfettamente normali. Ho visto il terrore negli occhi di Alberto, volevo chiederle prima di salutarlo un'altra cosa. Usare la calcolatrice, ormai ai nostri tempi non si usava, ci facevamo tutte queste operazioncine con la carta e la su un foglietto. Invece adesso i ragazzi con grande disinvoltura vanno a scuola anche nei compiti in classe e dicono uso la calcolatrice. Ma fa bene o fa male? Ma guardi, se io le dicessi venga al lavoro in calesse invece che in automobile, lei mi guarderebbe forse in maniera stranita, non so. La calcolatrice, perché se mi non metto usarla? Un bel vestito con un cappello come una damina, io direi mi porti volentieri in calesse. La cosa importante da capire è gli obiettivi che noi vogliamo raggiungere con questi ragazzi. Se noi vogliamo insegnarli a ragionare e a guardare le cose appunto in maniera critica, e quindi la matematica cosa deve servire? Per far ragionare un ragazzo, per fargli parlare di un qualche cosa avendo dei dati a disposizione, di fargli fare dei passaggi logici, di diventare una persona più razionale e consapevole. Beh, io non credo che fare delle operazioni velocissimo aiuti a perseguire questi obiettivi. Una volta i calcoli appunto si facevano a mano, anche perché le calcolatrici costavano tanto, non c'erano e così via. Io dico, come tutto progredisce, perché non progredire anche in questo? Dopotutto, certo, un ragazzo fargli fare una moltiplicazione in colonna e poi esce dalla classe, apre internet e trova di tutto e di più, certo, ecco, forse si chiede ma che cosa mi serve fare l'operazione in colonna? È una domanda anche legittima. È una domanda che lasciamo aperta e intanto salutiamo il nostro professore, ricordo mai arrivederci, più arrivederci, buona matematica a tutti. Grazie, cercheremo, ci alleneremo, ricordo il titolo del libro, mai più paura della matematica, insomma ci proveremo. Professore, intanto un po' di paura ce l'ha tolta, la ringrazio, la saluto. Un po' alla volta, passetto per passetto. Grazie professore. Arrivederci a tutti. Questa casa non è un albergo. Siete rimasti in nostra compagnia? Avete fatto bene, perché oggi parliamo di un problema un po' scottante che proprio si può presentare in questo periodo, quando le vacanze sono finite e la scuola è lì che ci chiama. Andiamo a sentire, Alberto, una mail di una nostra ascoltatrice e poi proviamo a commentarla per dare un po' di istruzioni per l'uso, possiamo chiamarle così? Certo. È una sorta di laboratorio anche questo, anche se meno gioioso. Meno divertente di quelli che abbiamo fatto ad agosto. Andiamo a sentire la mail. Nostra figlia Margherita ha terminato con grande successo la scuola media. È stata promossa con ottimo e ora andrà al liceo classico della nostra città. Quest'estate ha cominciato a manifestare una serie di ansie proprio legate a questo passaggio. Mancano pochi giorni all'inizio della sua nuova avventura scolastica e lei ogni giorno sembra più spaventata. Non vorremmo che avesse una crisi di ansia o di paura proprio all'inizio di questa nuova esperienza, per lei così importante. Del resto, non possiamo nemmeno continuare a coccolarla perché la scuola superiore è certamente più dura delle medie, che ha da poco terminato, e quindi è bene che si renda conto dei nuovi sforzi che dovrà affrontare. Come intervenire? Come rassicurarla e aiutarla a vivere meglio questo passaggio? La sua paura può evolvere e diventare un caso conclamato di fobia scolare? Insomma, Alberto, nuove avventure, nuove paure. Certo, e la fobia scolare tra l'altro è un tema che compare sempre più spesso sui giornali, tra l'altro proprio in questi giorni ne hanno già ricominciato a parlare, sembra essere un problema più frequente, sempre più frequente, a volte anche addirittura tra bambini della scuola elementare. Come mai secondo te, Alberto? Ma chi dice maggiormente fragili, maggiormente vulnerabili, più incapaci di tollerare la frustrazione, spesso proprio più ingorgati direi da emozioni su cui spesso non riescono a trovare la via d'uscita e conseguentemente la paura della scuola diventa una di quelle modalità attraverso cui manifestano la loro ansia di separarsi dai genitori oppure la loro ansia da prestazione. Ma la fatica più grande anche per un clinico spesso è capire cosa è realmente una fobia scolare e distinguerla da quella che invece è un'ansia che più o meno coglie tutti i bambini e i ragazzi che devono fare un salto non indifferente dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado oppure dalla scuola primaria, secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado. Quindi, insomma, lo snodo classico è dalle medie al liceo e poi dal liceo all'università. Esatto. In linea con noi viene a darci una mano per analizzare questo caso, direi un grande amico della nostra trasmissione, il dottor Giuseppe Maiolo, psicologo, psicoterapeuta, presidente della cooperativa sociale Il Germoglio e docente incaricato di psicologia generale dell'età evolutiva. Buongiorno. Buongiorno. Mi fermo qui perché sennò a dire tutte le sue qualifiche finisco la puntata, ma devo aggiungere che lei ha scritto dei libri molto interessanti di cui abbiamo parlato più volte in trasmissione insieme ad Alberto, tra cui uno in particolare, L'occhio del genitore, e Alberto invece segnalava anche un altro interessante. Dalla parte degli adolescenti, edizioni Erickson, ma dottor Maiolo invece faccia un po' il professore con noi e ci aiuti a capire, c'è da preoccuparsi per Margherita? Ma io direi di no, perlomeno a sentire quello che scrive la madre. Non mi sembra che ci sia da preoccuparsi, se si tratta però di una ansia che appunto si colloca nel momento in cui una ragazzina, 13-14 anni, inizia una nuova avventura come quella della scuola media superiore. Di solito questa è un'ansia più che fisiologica, nel senso che capita a tutti quando si comincia una nuova cosa, quando si devono incontrare nuovi compagni, nuovi insegnanti, nuovi metodi di studio. Però mi premeva sottolineare forse un passaggio in quella lettera, in quella mail, in cui appunto diceva la madre forse non dobbiamo continuare a coccolarla. Ecco, anche a me ha colpito ed è questo che volevo chiederle. Non dobbiamo continuare a coccolarla, perché? Ma intanto questo fa pensare al fatto che sia stata una bambina con molta attenzione, se non iperprotetta da parte dei genitori. E questo sicuramente può mettere una dose in più di ansia. Poi l'altro aspetto è la scuola superiore è certamente più dura delle medie. Anche questa è una prospettiva che potrebbe il genitore inserire nella visione della ragazza e far pensare che adesso dovrà faticare, dovrà affrontare delle cose molto più problematiche e impegnative. Allora, da una parte l'iperattenzione, l'iperpreoccupazione, le coccole fornite, dall'altra è come dire adesso basta coccole, guarda che ti devi arrangiare e c'è un percorso tutto in salita. E questo fa nascere ansia. Beh, la farebbe nascere anche a me. Senta, allora, supponendo che si tratti di una paura sana, fisiologica, che giustamente segna quel passaggio tra il luogo certo e conosciuto, che è quello delle medie, compagni, professori, con una nuova avventura all'incerto, come deve rassicurare la mamma Margherita e le varie Margherite, Carli, Fabi, eccetera, che magari si ritrovano in questa situazione? Intanto probabilmente non presentare questa nuovo percorso come più difficile delle altre, certamente avrà delle difficoltà diverse, ma anche Margherita, come le tante Margherite, hanno delle competenze in più che saranno quindi capaci di utilizzare. Quindi in qualche modo, da una parte far presente qual è la realtà, ma anche puntare sulle competenze acquisite che l'aiuteranno. Io credo che questo sia più che legittimo per un genitore, incoraggiare e nello stesso tempo anche far vedere che ce la può fare, insomma. Alberto, ho bisogno di te. Poi tu farai una domanda, ma tu sei il nostro esperto e quindi ti sfrutto, no? A vantaggio dei nostri ascoltatori. Ci sono la data si avvicina, più Margherita si un po', insomma, traballa. Ecco, concretamente che cosa si può fare per allentare un po' la tensione? Per tutto questo agosto hai suggerito giochi, avventure da condividere con le nostre ragazze. Si può anche fare concretamente qualcosa per abbassare un po' questo livello di preoccupazione? Guarda, di base avevano ragione i nostri nonni, che usavano sempre proverbi e dicevano mai fasciarsi la testa prima di averla rotta, e questo è un po' il concetto che dovremmo trasmettere a Margherita, che però ha una fortissima attivazione emotiva e quindi non sta molto sul piano della ragione. Credo che una buona possibilità, e speriamo che a Margherita vada così, sia che nella nuova scuola entra insieme a lei un'amica del cuore o una compagna con cui lei è molto legato. Quello che io farei è facilitare l'incontro e la vicinanza tra Margherita e la sua amica compagna, perché probabilmente in anche coppia L'altra sarà molto attivata, ansiosa, spaventata, e questo è uno di quei casi in cui l'ansia di una probabilmente non moltiplicherà l'ansia dell'altra, ma cominceranno a esplorare insieme possibilità per venirne fuori, probabilmente cominceranno a progettare strategie per placare un po' la loro attivazione, tipo ci mettiamo in banco insieme, oppure cominciamo a guardare insieme i libri di scuola, o ancora come faremo durante i compiti in classe, eccetera eccetera. Ma in questo caso le parole saranno proprio degli strumenti che consentiranno ad entrambe di entrare dentro la loro emozione, prenderne possesso e diminuire il livello di ansia che c'è abbinata. Ma mi piacerebbe capire con il dottor Maiolo, molte volte ci scrivono i genitori che leggono articoli sulla fobia scolare e hanno delle figlie molto ansiose rispetto alla scuola. Come si fa a distinguere un vero e proprio caso conclamato di fobia scolare da un'ansia invece associata alla scuola, che spesso è molto frequente? Beh, intanto il fatto che l'ansia può essere considerata proprio un fenomeno reattivo più che normale, in quanto mette in uno stato di preparazione il soggetto che deve affrontare una cosa nuova. La fobia invece è qualcosa di più strutturato, un fenomeno, come dire, più articolato, che presenta anche molti altri sintomi. Per esempio c'è la fobia di stare soli, non è solo quello di andare a scuola, ma anche a casa il ragazzino o la ragazzina fanno fatica a stare da soli, dormono male, hanno degli incubi. Diciamo che la fobia finisce per compromettere le relazioni sociali, le relazioni come dire, anche scolastiche. Si isolano i ragazzi, non hanno più voglia di affrontare le cose nuove, e voglio dire, questo si manifesta con più chiarezza fino a mobilitare un po' tutta la famiglia attorno a questo problema. Non si tratta più solo di risolvere la questione scuola, si tratta proprio di aiutare e ad affrontare una fobia molto più complessa. Quindi è un quadro ben evidente, no? Più chiaro, che compromette un po' la qualità di vita del ragazzo e quindi a macchia d'olio anche della famiglia. Alberto prima parlava di queste paure, questa ansia nei confronti della scuola anche nei bambini più piccoli, quindi bambini delle elementari. Ecco, ha delle caratteristiche differenti, dottor Maiolo? Ma diciamo che le caratteristiche sono più o meno le stesse. Sono presenti forme anche di reazioni fisiche, vale a dire i bambini manifestano disturbi, cefalee, dolori addominali, tutta una serie di manifestazioni proprio chiare di rifiuto. Al momento, proprio al mattino, di andare a scuola, i bambini dichiarano di stare male fisicamente. Questo è molto spesso associato alla paura cura del distacco da parte dei genitori e quindi diciamo che è massiccia la manifestazione di un bambino che sente appunto la difficoltà. Ha un corredo di sintomi, alcuni classici, no? Il classico mal di pancia, il mal di testa, la nausea, però si possono aiutare, Alberto, e quindi qua vengo da te. Concretamente, tu che stai per accompagnare due bambini, due dei tuoi figli all'ingresso della scuola, parliamo di elementare, che cosa stai facendo? Che cosa dici a loro per prepararli? Perché è un'avventura comunque da affrontare con grande serenità. A scuola siamo andati tutti, bene o male, tra successi e insuccessi, abbiamo concluso quel periodo. Alberto. Allora, raccontiamo insieme tutto il bello che ci sarà a scuola, nonostante abbiano molte cose che magari li spaventano un po'. Tutti i giorni, soprattutto con l'Alice, tiriamo fuori e dentro dallo zaino nuovo quaderni, astuccio, il libro che abbiamo già preso in cartolibreria, ci guardiamo le cose e attraverso gli oggetti ci abituiamo alla nuova avventura che sta per cominciare. Una nuova avventura per i più piccoli, ma sicuramente anche per gli adolescenti che a scuola si misureranno con nuove relazioni, oltre che con materie da imparare, insomma si cresce anche a scuola. Dottor Maiolo, io la ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi. Buona giornata. E buon lavoro. Grazie anche a lei, dottore. Grazie. Alberto, noi salutiamoci e ci sentiamo il prossimo sabato. Sì, apriranno le scuole e noi ci riapriamo come al solito. Grazie per averci seguito. Buona giornata da Nicoletta Carbone. Ed Alberto Pellai.